известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. I guess that's my sense of the writer's mission as a member of society, is to try to empathize with other people. Get away from yourself insofar as one can get away from yourself, and don't write about writers, don't write indeed about intellectuals, but try to write about ordinary people. Provare a scrivere di gente normale, di gente qualsiasi, di gente come noi, era questo l'intendimento di John Updike, il grandissimo, monumentale, se me lo passate, romanziere, saggista, critico, poeta americano, che si è spento martedì nel Massachusetts, in un piccolo posto che si chiama Danvers, vicino alla cittadina dove viveva, a Beverly Farms. Lui originario della Pennsylvania, ma da tanti anni residente nel New England. La morte di John Updike è una pietra miliare, tristemente intesa, della letteratura americana, perché se ne va uno dei due ormai grandi vecchi rimasti, lui e Philip Roth, a designare i nomi di coloro che hanno saputo raccontare l'America al resto del mondo, perché poi a questo è servito assai profondamente, intensamente, nella seconda parte del XX secolo, il romanzo americano, poi più tardi confortato con un'intensità a volte anche pari o superiore dal cinema americano, soprattutto negli anni 70 e 80, ma conoscere bene, approfonditamente, nella sua natura per l'appunto più normale, no? Più naturale, quindi più confrontabile, rispecchiabile con la nostra natura, la borghesia americana, la middle class, le aspirazioni, i desideri, le frustrazioni della gente che ci circonda qui come là, è stato un episodio che è passato, ha transitato brillantemente proprio attraverso un nutrito gruppo di romanzi, molti dei quali portano per l'appunto la firma di John Updike. Io vi ricordo soltanto la saga di Rabbit, no? Coniglio, come almeno nelle prime edizioni italiane veniva tradotto il personaggio di Harry Engstrom, che aveva questo soprannome di Rabbit, di Coniglio, il mancato giocatore, mancata star della pallacanestro, che diventa un venditore d'auto, ma diventa soprattutto un uomo adulto, o forse no, o forse proprio la storia della difficoltà di diventare una persona adulta, è la storia di quei quattro romanzi che uno ogni 10 anni punteggiano per l'appunto la saga di Engstrom, di Rabbit, come la saga di Beck, un altro personaggio invece più stravagante, più strano, più letterario, inventato da Updike per raccontare un'altra America, in questo caso più presenzialista, più dentro la curiosità e il mondo della cultura. E poi la vastissima produzione saggistica e soprattutto l'incarnazione, e questo forse l'unica cosa che non ha scritto, perché Updike era uno scrittore compulsivo, ha pubblicato qualcosa come 60 o 70 volumi, ma l'unica cosa che non ha scritto era una sincera, semplice descrizione del suo personaggio, no? nella sua realtà, della sua presenza come intellettuale americano, un modello che abbiamo imparato a conoscere e a apprezzare per la sua apertura, la sua gentilezza, la sua eleganza e il suo acume, ma che proprio in Updike ha trovato una declinazione particolarmente intensa. Abbiamo tra poco una testimonianza di Alessandro Piperno, un giovane, promettente, eccellente romanziere italiano su Updike, ma prima, per celebrarlo, voglio leggervi questo attacco di una fantastica, di un fantastico elogio scritto da Michiko Kakutani, la critica, il critico letterario del New York Times, una signora delle lettere, che riesce a non sembrare mai adulatrice ma mai inutilmente cattiva. Scrive un lungo articolo su Updike senza necessariamente incensarlo, però cogliendone veramente il senso. Vi leggo l'attacco. L'articolo è intitolato "L'infaticabile Updike ha descritto i misteri americani". Dice la Cacutani, dice, dotato dell'immaginazione pittorica di uno studente d'arte, di un occhio sociologico da giornalista e del dono poetico della metafora, John Updike, morto martedì a 76 anni, era con ogni probabilità uno dei veri letterati a tutto tondo di questa nazione. Si muoveva elegantemente dalla fiction alla critica, dalla scrittura poetica al racconto, fino al più impegnativo formato del romanzo. Un decatleta letterario in questa epoca di distrazioni elettroniche e di esasperazione. Specializzazione, vittoriano nella sua industriosità e quasi blogger nella sua determinazione di trasformare in parole ogni scheggia di conoscenza e esperienza. Updike sarà ricordato soprattutto come il romanziere che ha aperto una illuminante finestra sulla borghesia americana della seconda metà del XX secolo. Nei suoi migliori lavori Updike era capace di dare al quotidiano la bellezza che merita, usando una espressione da lui stesso coniata, storicizzando i misteri qualsiasi dell'amore, della fede, della domesticità, con una impressionante quantità di sfumature nelle sue istantanee, coi folgoranti colori delle Kodachrome. Ci ha parlato di adulteri suburbani anni 50-60, di enormi automobili e larghi prati tosati, di impianti hi-fi e di programmi radio, e ha mappato il mutevole territorio degli anni 70 e 80, dove i centri commerciali ingoiavano le piccole città e il costume sessuale e sociale finì sottoposto a una selvaggia metamorfosi. E per avere una testimonianza ancora su John Updike abbiamo chiamato Alessandro Piperno, un docente di letteratura francese a Tor Vergata, famoso per il suo esordio letterario sulla scena italiana con un romanzo intitolato Con le peggiori intenzioni, è già più volte ospite qui da noi. Buon pomeriggio Alessandro. Eccoci. Allora, abbiamo parlato prima di chiamarti un po' della possibile esperienza di alcuni giovani italiani di crescere leggendo una certa letteratura americana, Philip Roth e John Updike in particolare, e di subire culturalmente, poi per qualcuno che magari ha imboccato come te questa professione anche in senso un po' più professionale, il gusto della citazione, del fascino per questa sua particolare capacità di osservare la borghesia, se mi passa l'espressione, forse al suo meglio, comunque in una espressione estremamente perfezionata, su cui in fondo questo scrittore ha basato, no, buona parte del suo lavoro. Cosa ne pensi? Beh, insomma, diciamo che Updike era uno scrittore molto, molto eclettico, a dispetto di molti altri suoi colleghi americani, nel senso che era uno che aveva mille talenti, un meraviglioso critico letterario che scriveva delle bellissime recensioni sul New Yorker, aveva interessi politici abbastanza insomma direi equilibrati, niente affatto, certo, sbilanciati, certo, eccetera, e ha scritto romanzi molto discontinui, cioè ha scritto dei romanzi orrendi come uno degli ultimi tradotti in Italia che era Il terrorista, certo, che insomma, e ha scritto dei romanzi meravigliosi come per esempio Coppie, certo, nel quale ha indagato come pochi altri, come dire, i vizi e le virtù erotiche della borghesia WASP del New England. E devo dire che la cosa che colpisce sempre di quella generazione di scrittori americani è aver saputo, diciamo, coniugare il cinismo al sentimentalismo. Mm-hmm. Sono due cose che dovrebbero essere in contrasto, e invece a loro riesce perfettamente. Cioè, lo sguardo che aveva Dai, che è allo stesso tempo disincantato ma è incantato, e anche la sua borghesia ricca del New England esce disincantata e incantata allo stesso tempo. Senti, per concludere, di questa proverbiale bulimia produttiva di Updike, capace di scrivere una settantina di volumi e soprattutto di accettare offerte di livelli molto diversi, forse per vantaggi economici, ma forse anche perché non sapeva letteralmente resistere, tu che fai, insomma, lo stesso mestiere, che cosa ne pensi? Può essere una specie di malattia, una specie di vizio? Insomma, io credo che ci sia una questione, ci siano delle questioni pratiche da amministrare. Mm. E che uno scrittore deve saperle, appunto, amministrare. Ci sono scrittori, come dire, che puntano sulla come dire, sulla purezza dell'ispirazione, e non è detto che siano i migliori, però insomma spesso sono grandi scrittori, penso a uno scrittore, grande scrittore francese come Flaubert, e invece c'è la categoria insomma dei bulimici, cioè di quelli che non temono di sporcarsi le mani, come per esempio era Balzac o Zola o questo tipo di scrittori qui. Credo che nel XX secolo, nell'America, che ha prodotto fino ad ora, insomma, che ha prodotto i migliori narratori, si sia un po' ristabilita la stessa dialettica, appunto, tra narratori che si amministrano in una forma quasi nevrotica, come Thomas Pynchon, come Salinger, e invece scrittori alla Updike, che si concedono, cioè che fanno, come dire, della loro dissipazione quasi una forza. E io ho una certa simpatia per entrambe le categorie, diciamo. No one likes us, I don't know why. We may not be perfect, but heaven knows we try. But all around, even our old friends put us down. Let's drop the big one and see what happens. We give them money, but are they grateful? No, they're spiteful and they're hateful. They don't respect us, so let's surprise them. We'll drop the big one and pulverize it. Asia's crowded and Europe's too old. Africa's far too hot and Canada's too cold. And South America stole our name. Let's drop the big one. There'll be no one left to blame us. We'll save Australia. Nostro omaggio, l'omaggio di Jefferson a John Updike, che se ne è andato, i suoi libri restano, e nella seconda parte del programma vi ricordo si parla, siamo costretti, qui non si scappa, di Auto Verde di Obama e di Clean Air Act, l'atto dell'aria pulita, ne parliamo tra poco. Invece sul sito Facebook oggi vi abbiamo rilanciato due temi che sono in circolo qui a Jefferson già da qualche giorno, ovvero Guantanamo, la chiusura e la deportazione dei detenuti in altri paesi, Italia inclusa, con Frattini che ha data ampia disponibilità e un senatore svizzero che dice la Svizzera ne prende 3-4, forse l'Italia potrebbe prenderne 7-8, che cosa ne pensate? E il perdono ai lefebvriani e l'ingombrantissimo Monsignor Williamson, che non ritratta, vero Emiliano? Comincia tu. Williamson per certi versi rilancia, tra l'altro vorrei ricordare un aspetto che non so se definire grottesco o tragico di tutta la vicenda, perché effettivamente, come ieri ci ha ricordato anche Don Filippo Di Giacomo di Striscio qui in diretta, il padre di Marcel Lefebvre, cioè quello da cui tutto è nato, in effetti è morto in un campo di concentramento abbiamo verificato, si chiamava René Lefebvre, era un industriale e durante la seconda guerra mondiale venne arrestato dalla Gestapo perché collaborava con la resistenza francese e con l'intelligence britannica. E su Lefebvre e Williamson si sono scatenati i pareri, come sempre, di voi ascoltatori. Allora, Mio Fafric ci dice: su Williamson la revoca della scomunica mi sembra intempestiva, per non dire di peggio. Invece Germana dice che l'atteggiamento del disprezzo, della loro messa a tacere con l'anatema, sia controproducente, invece, quindi parere completamente opposto, perché se ne fa dei martiri della libertà di opinione. Giampiero dice: quello che trovo inaccettabile non sono tanto le parole del vescovo quanto l'assordante silenzio del Papa. Però Stefano, oggi il Papa è intervenuto abbastanza duramente, anche perché poi si rischiano degli incidenti diplomatici. Papa e rabbinato si stanno rimandando la palla con il mondo ebraico. Poi c'è Mauro che invece dice: concordo in pieno con l'articolo di oggi di Polito sul Riformista e personalmente mi bastano le scuse ufficiali, anche se la disarcivescovizzazione di Williamson non mi dispiacerebbe. Il riferimento è l'articolo del Riformista nel quale Polito dice: se i liberali difendono una scomunica, cosa che a suo giudizio gli sembra paradossale, quindi di fatto sta dalla parte del Papa in questo caso. Vediamo un po' su Guantanamo. Allora, Luca scrive: non capivo il motivo per cui avremmo dovuto prenderci dei prigionieri americani. Se chiudono una ingiusta prigione, possono metterli in una giusta loro. Poi ho sentito la teoria secondo la quale sono prigionieri di una guerra particolare, quella al terrorismo, in cui tutto il mondo, con cui tutto il mondo è in lotta. I prigionieri e le responsabilità di questa guerra, secondo questa teoria, vanno spartiti fra tutti gli stati alleati. Sicuramente tutto acquista più senso. Mauro: ieri mi sembrava una buona idea, oggi analizzando il sovraffollamento delle nostre carceri ho qualche dubbio e comunque bisogna negoziare una adeguata contropartita. Niente base NATO a Vicenza? Interessante questo, lo scherzetto. Franco: abbiamo preso Ocalan, possiamo prendere anche questi e cercare di fargli capire che siamo un paese civile. Giovanni: se la Svizzera 4, l'Italia 7-8, diciamo che gli svizzeri sono abituati a tenere le cose in cassaforte, noi un po' meno. Giampiero: sotto l'aspetto dei diritti umani ci riguarda tutti, nazioni e cittadini. Vivere in uno stato di paura ha spento le nostre coscienze al punto di accettare passivamente una Guantanamo, vale la pena reagire. E ancora Dario: se in Italia vige ancora lo stato di diritto, qualche dubbio ce l'ho, non mi risulta si possano detenere in carcere persone che non abbiano subito condanne detentive da parte di un tribunale italiano, acuta osservazione questa, o che siano recluse in attesa di giudizio con le motivazioni previste dalla legge. Niente spartizione, secondo Dario. E per concludere Matilde: sarò tarda, ma benché sia contenta della chiusura di Guantanamo, non capisco perché altri stati debbano prendere in consegna i detenuti. Sarà una soluzione temporanea o definitiva? Altra buona domanda. Per chiudere, non c'entra nulla né con le Fevre né con Guantanamo, però nel Mare Magnum di Facebook, sempre in movimento, ci arrivano addirittura dei saluti internazionali. Oh. Ci autocelebriamo in qualche modo, perché Ivan Jotic ed Almir Delic ci hanno scritto, uno da Belgrado e l'altro dalla Bosnia, dicono di essere nostri fedeli ascoltatori, ci salutano e quindi noi ricambiamo piacevolmente i saluti. Partizan, Belgrado, sì, la Bosnia, anche loro ci ascoltano dall'altra parte dell'Adriatico. Vi ricordo gli indirizzi Facebook per scrivere e parlare con noi: redazione Jefferson 2, la bacheca dove si discute, Jefferson 2, Radio 24, Express Yourself. Ho visto che è partita anche l'autogestione, siamo molto contenti. Come here, girl. Stop! Let go! What you looking at, old man? Questa è la vocetta, di Clint Eastwood, protagonista e autore di questo Gran Torino, un film che ruota attorno tutto, oltre che al problema della tolleranza in America, ma all'amore degli americani per quelli che loro modestamente chiamano gli American Horses, i cavalli americani, quelli che producono formidabili cilindrate, macchine leggendarie, veri e propri cavalli, puro sangue della strada, che pare purtroppo attorno all'anno 2009 siano destinati a imboccare in una ordinata fila i garage dell'altra parte dell'oceano, perché la rivoluzione verde di Barack Obama sembra un dato di fatto, sembra in rampa di lancio, in pista di decollo, l'accettazione, l'adozione di buona parte dei principi che il governatore Schwarzenegger già nel suo stato della California aveva messo in circolo sotto la etichetta di atto dell'aria pulita, Clean Air Act, un pacchetto di regole che mira a diminuire innanzitutto drasticamente le emissioni di gas nocivi nell'atmosfera e poi a fare molte altre cose, fondamentalmente mettendo in circolo il più presto possibile automobili diverse, probabilmente alimentate al più presto, nei tempi più rapidi possibile, in modo diverso, comunque che consumano di meno, come si dice in Italia, insomma, che non si fanno quei 4-5 chilometri con un litrozzo come buona parte dei bisonti americani. Ed è una specie di febbre che sta pervadendo l'America e anche di sponda il mondo su questa questione, e abbiamo ospiti per parlarne, quindi io a loro preferisco lasciare la parola. Tanto per cominciare chiamo in causa Marco Magrini, che è giornalista del Sole 24 Ore, esperto di questioni ambientali e climatiche, nello studio di Milano. Ciao Marco. Ciao, buonasera. Da te vorrei prima di tutto una piccola prolusione, una piccola introduzione. Ci siamo veramente, questo è la volta buona, come si diceva un tempo. L'operatività non è solo legata, magari per esempio, alla terribile crisi dell'industria automobilistica, è un dato di fatto, è un pacchetto, è un sistema di intervento, secondo te? Sì, più che legato alla crisi automobilistica, Obama ha preso spunto dalla crisi finanziaria economica in corso, dicendo in sostanza: parte dei soldi che il Congresso mi darà per, come pacchetto di stimolo all'economia, verranno riversati ovviamente solamente in parte per dare un nuovo sistema energetico all'America che al tempo stesso contribuisca a risolvere il problema del riscaldamento globale e anche a diminuire la dipendenza energetica degli Stati Uniti verso, per esempio, il Medio Oriente o il Venezuela. Come giudichi la semplicità di una soluzione legata all'avvento di un nuovo presidente? Com'è possibile che l'entrata in carica dell'amministrazione di Obama sembra improvvisamente avere a disposizione, se non tutti gli strumenti, almeno diciamo le micce giuste per far esplodere questa voglia di un ambiente realmente più protetto che fino a un mese fa? Ti sembra un percorso al di fuori del politicamente corretto, insomma un percorso operativo? Assolutamente sì, anche perché sono cambiate le condizioni politiche nel frattempo. Ricordiamo che gli Stati Uniti non avevano ratificato il protocollo di Kyoto firmato ai tempi dell'era Clinton, e anche perché il Senato americano aveva respinto quel progetto 95 voti a zero. Ma adesso, negli ultimi due anni, diciamo più debolmente da parte democratica, ma sicuramente più debolmente da parte repubblicana, ma da parte democratica, diciamo nel congresso americano c'era un forte consenso per fare qualcosa, per fare in modo che gli Stati Uniti ritornassero al centro della diplomazia climatica, cosa che nell'era Bush era parso addirittura un sogno. Dunque, vai. No, stavo semplicemente dicendo che tu hai citato prima Schwarzenegger, governatore repubblicano della California, certo, che l'altro giorno ha detto: è chiaro che la California e l'ambiente adesso hanno un forte alleato nella Casa Bianca, quindi come si vede c'è anche un consenso bipartisan, come dicono in America. Certo, e questo grande abbraccio verso l'ambiente da parte degli americani, tanto a lungo auspicato, no? C'è stata a lungo una divisione fra buoni e cattivi, Al Gore ha giocato un ruolo importante in questa diatriba. E io voglio chiamare in causa Riccardo Cascioli, giornalista che si occupa da tempo di questioni ambientali, spesso con posizioni diverse, cura tra l'altro il sito svipop.org, svi come svi pop.org, un'agenzia online creata dal CESPAS, che è il Centro Europeo di Studi su Popolazione, Ambiente e Sviluppo. Buon pomeriggio, Riccardo. Buon pomeriggio a tutti. Che cosa ne pensi, insomma, di questa ondata di buone intenzioni che però sembrano correre su un binario, appunto, come dicevamo, questa volta operativo? Ma io intanto devo dire che sono abbastanza preoccupato dal fatto che il presidente del paese, se voglio o meno, ma più importante del mondo, consideri il riscaldamento globale un problema molto più grave che non quello del terrorismo, perché fin dal discorso iniziale questo è apparso abbastanza evidente. E dico, è preoccupante perché qui si tratta di confrontarsi tra una minaccia che è molto reale e concreta, l'abbiamo visto negli ultimi 8 anni, contro una minaccia che sì, dovrebbe esserci nel futuro. In ogni caso la comunità scientifica è tutt'altro che, diciamo, d'accordo su questo punto qua, e quindi pare comunque azzardato basare tutta una serie di politiche nazionali, energetiche, economiche su un punto quantomeno controverso e comunque futuribile, e quindi credo che sia abbastanza da questo punto. E quindi Riccardo, come interpreti tu le mosse di Obama partendo dal tuo punto di vista, perché lo sta facendo? Ma lui sicuramente ha una sua convinzione e sicuramente è stato sostenuto in questa campagna elettorale anche dalla lobby verde. Lui sicuramente ha avuto tutto l'appoggio da parte del gruppo di Al Gore e dintorni, e anche dalle prime nomine si vede che questa è la strada. Io volevo appunto sottolineare per esempio una nomina importante che ha fatto, quella del consigliere scientifico della Casa Bianca, che è John Holdren, che è appunto una vecchia conoscenza delle precedenti amministrazioni, sicuramente uno di quelli che fin dagli anni 70 si è distinto come ecocatastrofista, è un professore di politica ambientale. Tanto per dire una cosa, nel 71 lui affermava pubblicamente che entro la fine del secolo, quindi entro il 2000, ci sarebbe stata quasi certamente una catastrofe ecologica, se non addirittura una guerra termonucleare. Bene, Riccardo, aspetta, sentiamo ancora Marco Magrini prima di arrivare alle notizie del traffico. Che ci sia quindi, Marco, un possibile sensazionalismo. Al Gore oggi è andato a parlare del riscaldamento terrestre in una Washington gelata, gli editorialisti americani sotto la neve, la nebbia, gli editorialisti americani ci hanno naturalmente intinto, no? Il pennino nell'ironia della sorte, ma può esistere un'ipotesi di questo genere di un catastrofismo? Che dici? Beh, sicuramente Al Gore nel discorso che ha fatto potrebbe anche aver esagerato un po', nel senso che lui ha detto che gli Stati Uniti devono tagliare le emissioni, certo, del 90% entro metà secolo, e questo è probabilmente un obiettivo un po' troppo ambizioso. Detto questo, non sono palesemente d'accordo con Cascioli quando dice che il tema è controverso e futuribile. È dal 1896, quando il chimico svedese Svante Arrhenius Renius, che rivelò al mondo, agli scienziati svedesi, che un giorno la Svezia sarebbe diventata più calda per via delle proprietà chimiche e fisiche dell'anidride carbonica che nell'atmosfera trattiene la radiazione infrarossa dei raggi solari. Su questo non c'è, come dire, nulla da dubitare, e quindi si tratta, proprio perché è un problema futuribile del quale non risentiamo tanto noi nella nostra vita, ma soprattutto i nostri nipoti, c'è un principio nel diritto internazionale che si chiama il diritto di precauzione, per il quale è più che fondato l'idea di fare subito qualcosa. E voglio soltanto sottolineare che Obama non dice che bisogna cambiare un sistema energetico soltanto per proteggere il pianeta dal rischio serio e reale del cambiamento climatico, ma anche per fare in modo che gli Stati Uniti non siano energeticamente dipendenti da altri paesi. E questo lo trovo assolutamente sensato. Benissimo, torniamo a parlare tra poco. Insomma, l'uomo, quello che Vanity Fair ha nominato l'uomo più famoso della storia del mondo, sarebbe, secondo i loro calcoli statistici, Barack Obama, ha preso la questione per le corna e potrebbe essere, come dicevamo, la volta buona. Parlare di proposta di New Deal verde, come ormai si chiama la proposta verde di Barack Obama, con i suoi punti principali, la condivisione con quanto è avvenuto in California. Adesso terremo conto anche dei vostri messaggi, certo li leggiamo i messaggi SMS, insomma, finché riusciamo a vedere fino allo schermo li leggiamo. 349-238-6666 fanno parte del sistema di comunicazione di Jefferson. Però prima ascoltiamo Andrea Malan, che si occupa di auto al Sole 24 Ore, e sulla proposta di intervento di Barack Obama, ovvero una riduzione del 30% entro il 2016, con obbligo per i produttori a mettere sulle strade una nuova generazione di automobili capaci di fare 53 chilometri con 4 litri, quindi intorno ai 16-15 chilometri, no, meno 14 chilometri al litro. Abbiamo chiesto appunto a Malan, la prima domanda che gli abbiamo fatto è: quali sono i punti forti o deboli della rivoluzione verde di Obama, secondo lui? Il punto di forza sicuramente è questo incentivo alla riduzione dei consumi, questo incentivo, questo fatto di costringere comunque i costruttori a lavorare in maniera più accentuata sul contenimento dei consumi. Ricordiamo che gli Stati Uniti vengono da decenni invece in cui per esempio il consumo medio della flotta praticamente non è variato, nel senso che quei pochi miglioramenti che comunque ci sono stati nelle tecnologie sono stati compensati dall'aumento del peso dei veicoli e quindi dall'aumento anche poi degli accessori, dai condizionatori a tutti gli altri accessori elettrici che consumano energia. Quindi il consumo medio è rimasto inalterato, per cui sicuramente l'incentivare e lo spronare, diciamo, una maggiore ricerca e una maggiore efficienza in questo senso è un aspetto positivo. Il grosso punto di domanda è si comporteranno i consumatori. Ricordiamo che negli ultimi sei mesi, quando il petrolio era arrivato a $150, anche negli Stati Uniti c'era stato un boom di vendite di auto piccole o medio piccole. Dopo sei mesi, col petrolio tornato a $30, quindi la benzina Uniti è scesa da $4 al gallone a meno di 2, diciamo che non si è proprio tornati totalmente alle vecchie abitudini, ma sicuramente il peso dei veicoli che consumano meno è tornato a scendere parecchio, quindi sicuramente gli americani hanno un determinato tipo di autoveicolo in mente, sono diciamo abituati tradizionalmente, non solo per una loro forma mentis, ma anche per una serie di incentivi fiscali, per esempio, che sono stati in precedenza con la benzina appunto molto economica, a pretendere ad acquistare veicoli grandi. E avete mai sentito parlare di Shai Agassi, che è un giovane imprenditore miliardario israeliano che ha creato un progetto relativo a Israele, al suo paese, un progetto che si chiama Better Place, l'auto elettrica per tutti, con 500.000 punti di ricarica secondo un sistema computerizzato molto complesso sparsi in tutta la nazione, che però ha il vantaggio di essere una nazione piccola. Ad esempio il mensile Wired ha deciso che l'idea di Shai Agassi è veramente l'idea vincente per risolvere il problema, per svoltare verso l'elettrico. Sentiamo che cosa ne pensa per l'appunto Andrea Malan, non una macchina elettrica ma una rete di distribuzione di elettricità. Beh, sicuramente è una scommessa molto interessante, è una scommessa che ha più probabilità di riuscita in un paese piccolo come Israele. So per esempio che è in corso o è allo studio un tentativo simile in un altro paese relativamente piccolo come il Portogallo, quindi da paesi piccoli è più facile costruire un'infrastruttura senza investimenti giganteschi, ma è chiaro che la sua scommessa coglie il punto fondamentale, cioè non basterà avere un'auto elettrica funzionante ed efficiente, ma bisognerà, perché la gente sia incentivata a comprarla, oltre al costo elevato della benzina, servirà anche che la gente sappia di poter disporre di un'infrastruttura dovunque, dove poter o ricaricare le proprie batterie o, come è stato proposto da alcuni, scambiare in pochi minuti la propria batteria con una batteria carica. Andrea, tu però ci hai detto che il suo progetto è più facilmente realizzabile in uno stato piccolo come Israele, invece in una nazione su larga scala come gli Stati Uniti? Beh, probabilmente sarà necessario, volendo appunto convertire un'intera rete di distribuzione, ovviamente sarà inevitabile partire da, per esempio, singole città o zone relativamente ristrette e poi allargare la cosa progressivamente, ma è chiaro che i tempi sono inevitabilmente lunghi e così sono lunghi e importanti anche gli investimenti. Allora, richiamiamo in causa Riccardo Cascioli, che se mi passa la qualifica di giornalista con posizioni scettiche nei confronti della questione dell'ambiente, vorrei sapere come vede tutto questo, no, questo ribollire di ideazioni, di soluzioni, in certi casi un po' fantascientifiche, ma insomma, come la pensa Riccardo? No, ma io credo che tutto questo sia positivo, ma quello che secondo me è il grosso equivoco è pensare che finora non è mai stato fatto nulla e adesso all'improvviso si cominciano a fare delle cose, a ricercare. Questo invece non è assolutamente vero. Bisogna dire che la storia degli ultimi decenni ci dimostra che in tutto il mondo sviluppato invece la ricerca è andata avanti, sono state trovate nuove soluzioni. Oggi una macchina anche a benzina, ma diciamo emette meno inquinanti rispetto alla macchina di 20 anni fa, del 70-80% in meno, quindi questo c'è già stato. Per quello che riguarda poi la questione, semplicemente di precisare, sul riscaldamento globale, il problema non è se c'è o non c'è il riscaldamento globale, il problema è se è causato o non è causato dall'uomo. E qui che un ascoltatore, Riccardo, ha appena scritto: ma che, ricominciamo con la storia che il problema ambientale è opinabile? No, noi dividiamo le cose. Un conto è il problema ambientale in generale, un conto è la questione del riscaldamento globale. Perché appunto il problema è se è causato dall'uomo o non è causato dall'uomo questo riscaldamento o il cambiamento climatico. Quindi questo è il punto controverso. L'altra questione è questa. C'è un grosso equivoco, perché la riduzione delle emissioni, di cui tanto si parla e di cui si fa araldo Obama, non è una riduzione di emissioni inquinanti, ma è una riduzione di emissioni di CO2, che non è necessariamente la stessa cosa. Anzi, la CO2 non è affatto un inquinante, è un gas serra, quindi è stato criminalizzato, lasciami passare il termine, perché sarebbe il principale imputato dei cambiamenti climatici, anche questa situazione scientificamente controversa, ma comunque La CO2, l'anidride carbonica, non è affatto l'inquinante, anzi è un gas fondamentale per la vita sulla Terra. E tra l'altro basta rendersi conto che negli ultimi anni le emissioni di CO2 sono aumentate, ma le emissioni inquinanti anche delle auto sono diminuite, quindi si vede che tra l'altro l'inquinamento e le emissioni di anidride carbonica non vanno affatto nella stessa direzione. Aspetta Riccardo, che il tempo è tiranno, e qui tra l'altro si sono scatenati anche gli ascoltatori. Ti sei beccato del negazionista del riscaldamento globale, tanto per cominciare. Comunque vorrei richiamare in causa Marco Magrini del Sole per almeno un paio di domande ai nostri ascoltatori. Ci chiede, ad esempio, Simo ci chiede: ma lo sapete che la California è a serio rischio default con il debito alle stelle? Siete certi che allargare le misure introdotte da Schwarzenegger non possa rappresentare la mazzata finale? Vogliamo rispondere, Marco? Purtroppo queste risposte richiederebbero un sacco di tempo. In California già ci sono, perché si stava parlando delle misure di Obama, investire nell'energia verde per anche dare un incentivo all'economia. Io ero in California la scorsa primavera proprio a occuparmi di energie rinnovabili, e in California, grazie alle misure molto rigide adottate dallo Stato, ci sono già centinaia di migliaia di persone che lavorano nel settore ambientale, e nella famosa Silicon Valley il business del momento, per la verità, come accennava Malan prima, il fatto che il prezzo del petrolio sia crollato ha effettivamente un po' bloccato gli investimenti, ma posso assicurare che nella Silicon Valley fino a sei mesi fa il business del momento era il cosiddetto clean tech, le energie pulite. Quindi questo vuol dire che un circolo virtuoso, perché si tratta di cogliere l'opportunità per aprire un nuovo settore industriale, avviare una terza rivoluzione industriale che non sia più basata sui combustibili fossili come è stato negli ultimi due secoli, aprire una nuova strada che comporta un nuovo business. Sono sicuro che la Silicon Valley sarà bravissima nel commercializzare le sue tecnologie in tutto il mondo, eccetera eccetera eccetera. Ovviamente esiste un problema di budget, come esiste un problema di tenuta del sistema economico americano, ma giusto appunto l'idea di Obama e anche del repubblicano Schwarzenegger è quella di investire al fine di risolvere contemporaneamente non uno ma due, tre o quattro problemi. Grazie a Marco Magrini, grazie a Riccardo Cascioli. Come avete probabilmente capito, il problema è in realtà un sistema di problemi che vanno insieme e che probabilmente, governati in modo corretto, potrebbero in un certo senso avviarsi a risolversi reciprocamente. Naturalmente il circolo virtuoso è nelle mani delle scelte di alcuni uomini, come il presidente degli Stati Uniti d'America, che è diventato in questo momento il motore principale a cui tutto il mondo sta guardando per capire se queste sono soluzioni o sono soltanto ipotesi. E quindi ringrazio Riccardo Cascioli, Marco Magrini e Andrea Malan, che ci hanno aiutato a cominciare ad affrontare questo problema così complicato, così ricco di aspetti e sfaccettature. Ci torneremo domani, Cina in primo piano, con Saro Capozzoli in studio, anche per far fronte a tante richieste da parte vostra, qui a Jefferson 2, dove ci sono io, Stefano Pistolini, Emiliano Enrico in redazione, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Filippo Aureggi. Una mail: jefferson2@radio24.it, sms al 349-238-6666, su Facebook. Noi siamo redazione Jefferson 2, la bacheca è Jefferson 2, Radio 24, Express Yourself, la replica a mezzanotte, la diretta domani alle 4 qui su Radio 24.